Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli. Come sicuramente moltissimi di voi avranno sentito, avranno letto, avranno visto su internet la notizia di oggi, su cui ancora stiamo cercando di fare chiarezza, è la sparatoria che c'è stata ieri a Monaco. E di questo però non parliamo in questa rassegna, se ne parlerà nei GR e sicuramente ne parleremo nella rassegna stampa italiana. Purtroppo soltanto una settimana prima dei fatti di Monaco c'era stato l'orribile attentato in Francia, a Nizza, e allora per esempio vi segnalo da Le Monde una analisi di quello che è, di questa ondata di violenza che ha sconvolto appunto la Nizza, la Francia e non solo. L'editoriale si intitola Ancora violenza. Oppressione, tristezza, collera, le parole non riescono a restituire i sentimenti provocati da questo nuovo massacro perpetrato in Francia. Sono inadeguata a descrivere la sensazione che la violenza sia arrivata al limite massimo dopo gli attentati a gennaio e a novembre del 2015. Il mezzo scelto, un camion che piomba sulla folla del 14 luglio, amplifica con la sua brutale semplicità la barbarie di questo attacco terroristico. E naturalmente poi questo era un commento scritto un po' a caldo, poi abbiamo saputo tante cose, abbiamo visto come probabilmente si è trattato di un attentato pianificato, e naturalmente Le Monde accenna anche al fatto della vulnerabilità non solo della Francia ma dell'Unione Europea. Però sull'eccezione, diciamo così, francese ha scritto anche il New York Times, e intitolando proprio un altro editoriale l'eccezione francese, perché gli attentati più gravi colpiscono proprio la Francia? La risposta è da cercare nell'inflessibile laicità. Ve ne leggo una parte perché è interessante, perché fa appunto dei paralleli con altri paesi dell'Unione Europea. Indipendentemente dal fatto che Mohamed Laouajeh Bouyel agisse per conto del gruppo dello Stato Islamico o fosse uno squilibrato solitario, il massacro solleva una domanda fondamentale: perché tanti attentati di questa portata avvengono in Francia e non negli altri paesi europei? Anche il Belgio è stato colpito di recente, ma con meno frequenza. Nel Regno Unito e in Spagna nessun attentato ha ucciso più di 10 persone negli ultimi 10 anni, mentre in Germania non ce n'è mai stato uno di grande portata. E naturalmente queste parole venivano scritte prima dei fatti di ieri, anche se poi sappiamo che il bilancio delle vittime è provvisorio, però forse appunto non supererà le 10 vittime. In ogni caso, naturalmente un numero enorme, gigantesco, inaccettabile. E scrive ancora il New York Times: gli errori dei servizi di sicurezza e dell'intelligence francesi non bastano a spiegare questa discrepanza, perché i problemi di comunicazione sono comuni a tutta l'Europa. E aggiungo, sapete che questo è uno dei grandi temi, cioè il fatto che l'Unione Europea, oltre a mancare una vera unione bancaria, manca una vera politica fiscale comune, manca anche una politica di difesa comune e quindi anche dei servizi segreti, non dico comuni, ma che almeno, come scrive il New York Times, comunichino tra di loro. Vi leggo l'ultima parte. Il modello di integrazione francese ha riscosso alcuni successi, come l'alto tasso di matrimoni misti. Anche il sistema economico e scolastico pubblico, che ha permesso ai più svantaggiati di migliorare la loro posizione, è stato uno strumento di integrazione, anche se ultimamente meno efficace. Costretti a scontrarsi con i pregiudizi sul mercato del lavoro, i figli degli immigrati hanno trovato rifugio in istituzioni statali come l'esercito e la polizia. Anche se la Francia è riuscita a integrare molti immigrati e i loro discendenti, quelli che sono rimasti ai margini sono più arrabbiati degli immigrati nel Regno Unito e in Germania, e spesso si sentono insultati per il fatto di essere musulmani o arabi. La laicità francese è così inflessibile da farli sentire privati della loro dignità. A questo si aggiunge l'aggressiva politica estera di Parigi, che sembra rivolta soprattutto verso i paesi musulmani. Il modello di integrazione francese è generoso nei principi, ma troppo rigido nella pratica. Oggi la società francese impone un approccio più pragmatico e flessibile, con meno diktat ideologici e meno paura del pluralismo. La Francia è cambiata, è ora che se ne faccia una ragione. E questo appunto per quanto riguardava l'attentato di giovedì scorso a Nizza. L'altro grande evento della settimana scorsa, naturalmente il golpe fasullo, è stato definito in tutti i modi. Parliamo della Turchia, anche qui è stato forse meglio far passare qualche giorno per capire cosa sia successo, anche se in realtà nessuno forse l'ha davvero capito, e anche perché poi sappiamo che durante tutta questa settimana sono arrivate le notizie sulla reazione del presidente Erdogan e del paese in generale a questo mancato golpe. E allora vi leggo anche qui da Le Monde l'analisi che ha intitolato: i golpisti hanno regalato a Erdogan il regime che sognava, e questo è un articolo di ieri. Sin dall'indomani del colpo di Stato mancato sono cominciate le purghe nell'esercito, nella magistratura, fra gli insegnanti e i mezzi di informazione, e l'autoproclamato eroe della democrazia, Erdogan appunto, ha colto l'occasione per mettere al passo il paese. Questo è un po' la sintesi di questo articolo che è scritto per Le Monde da Cengiz Aktar, che è un politologo turco, che riassume un po' tutto quello che è stato Erdogan in questi ultimi anni, e vi leggo questa parte perché anche qui c'è un confronto con un paese europeo, non un altro, anche se sappiamo che sono tanti anni che si parla di avviare un serio negoziato per l'entrata della Turchia in Europa. La Turchia, contrariamente alla Spagna post-franchista, non ha demilitarizzato il suo sistema politico, mettendo così l'esercito al servizio dello Stato. Salito al potere, l'AKP, il partito di Erdogan, ha abilmente utilizzato i prerequisiti richiesti dall'Unione Europea per limitare in maniera efficace il peso politico dei militari. Ha civilizzato istituzioni militari come il Consiglio Nazionale di Sicurezza, ma non ha mai toccato l'autonomia giuridica e finanziaria dell'esercito. I militari hanno conservato il loro sistema giudiziario interno e hanno regolarmente incassato il loro assegno in bianco all'inizio di ogni anno fiscale, senza dover render conto a nessuno. Il regime ha così vassalizzato l'esercito e quest'ultimo è stato felice di mantenere i suoi privilegi pur garantendo la lealtà al regime. Poi naturalmente qualcosa si deve essere inceppato se è vero che dietro a questo golpe ci sono appunto c'è una parte dell'esercito. Ora cambiamo argomento perché naturalmente un altro tema di cui si continua a discutere e si continuerà a farlo da qui alla fine di agosto probabilmente è la Brexit. E allora qui andiamo in Germania perché la Frankfurter Allgemeine Zeitung ha pubblicato un sondaggio, e questo sondaggio mostrerebbe come lo shock della Brexit, l'uscita dall'Unione Europea decisa con il referendum del 23 giugno, anche se sappiamo che dalle prime dichiarazioni della Premier Theresa May non verrà chiesta prima di ottobre l'attivazione dell'articolo 50, che è quello che appunto è nei trattati che deve essere chiesto per ufficializzare l'uscita di un paese dall'Unione Europea. In ogni caso, questo shock Brexit, così scrive la FAZ, ha spinto i tedeschi ancora di più verso l'Unione Europea. Secondo il sondaggio, il 78% dei cittadini interpellati è favorevole alla permanenza della Germania nell'Unione. Tra i votanti dei partiti tradizionali, cioè la CDU, la SPD, CDE è il partito di centrodestra, la SPD di centrosinistra, Verdi e Liberali, la media è addirittura superiore. Crolla solo fra agli aderenti del partito nazionalpopulista Alternative für Deutschland, la cui sigla è AfD. Favorevole in questo caso all'Unione Europea è soltanto il 28%. Se si votasse tra una settimana, sempre secondo questo sondaggio, la CDU, cioè la grossa coalizione guidata da Angela Merkel, il partito di Angela Merkel, la CDU, alleato con la CSU, raggiungerebbe il 35,5%, la SPD il 22,5%, quindi probabilmente sarebbe necessaria un'altra appunto grossa coalizione tra centrodestra e centrosinistra. Sempre a proposito di Germania e di commenti, la Süddeutsche Zeitung, poi torneremo sulla Brexit, comunque ci sono anche altri articoli che ho da segnalarvi, ma per restare in Germania, la Süddeutsche Zeitung ha invece cominciato a riflettere, visto che spesso si esercitano sulle banche italiane, ma non sulla loro più grande banca, la Deutsche Bank, che è in serie difficoltà per la quantità di derivati che ha nei suoi bilanci. La Süddeutsche Zeitung appunto ha cominciato a riflettere sulla Deutsche Bank e secondo secondo le indiscrezioni di questo quotidiano importante del sud della Germania, la banca starebbe per rompere un tabù interno e studiando un ulteriore passo nella sua strategia di riorganizzazione, ipotizzando la separazione delle due branche, cioè il credito e la consulenza. Questa è una cosa di cui si parla tantissimo da tantissimo tempo, riguarda non soltanto le banche ma anche le società di consulenza vere e proprie, e vedremo se appunto può essere una delle vie d'uscita per dare alla Deutsche Bank un futuro più solido. In qualche modo però prima va risolta sicuramente la questione dei derivati. Andiamo un attimo in Francia, perché secondo indiscrezioni pubblicate da Le Figaro, Pierre-Emmanuel Tétanger, che è la guida di una delle storiche Maison dello Champagne, potrebbe candidarsi alle presidenziali francesi del 2017. Anche qui viene fatto un po' un parallelo con altri paesi e in Italia abbiamo avuto Berlusconi, naturalmente negli Stati Uniti adesso c'è Trump, con questa esigenza che a volte evidentemente di cambiamento delle figure politiche, che spinge anche imprenditori o persone che magari nella loro vita di politica ne hanno fatta poca, almeno non in senso tradizionale, a impegnarsi direttamente. A proposito di Italia, Financial Times, che devo dire ha un'attenzione veramente particolare e lo fa anche in modo serio alle vicende politiche italiane, al grande fenomeno italiano, parlavamo dei cambiamenti, che è naturalmente il Movimento 5 Stelle. E allora questa settimana, non è la prima volta che Financial Times fa lunghe interviste a esponenti del Movimento 5 Stelle o analizza il fenomeno, come era successo dopo la vittoria alle amministrative delle due esponenti del Movimento 5 Stelle a Roma e a Torino. Questa settimana appunto il quotidiano britannico dedica un grande spazio al movimento fondato da Beppe Grillo e Casaleggio, con un'intervista a Luigi Di Maio, che come sapete è vicepresidente della Camera, ma soprattutto non nasconde ambizioni quando ci saranno le prossime elezioni, a candidarsi proprio come premier. Il Financial Times sottolinea che naturalmente il Movimento 5 Stelle è emerso come la principale minaccia politica per Renzi negli ultimi mesi. Ha guadagnato nei sondaggi, continua a guadagnare, e addirittura, se secondo alcuni di questi sondaggi, in questo momento sarebbe davanti al PD. A proposito di Brexit, è un bellissimo articolo che trovate su Internazionale, tradotto, apparso su The Standard, che è un quotidiano belga, che si intitola La periferia europea del Regno Unito. E il focus in questo caso è sui cittadini di Gibilterra, che è un territorio britannico d'oltremare, dove, analizzando il voto, si è visto che gli abitanti hanno votato compatti per rimanere in Europa e ora naturalmente hanno un po' paura del futuro, perché come sappiamo invece il voto generale è stato diverso. Da Iodonna, che trovate allegato oggi al Corriere della Sera, un altro approfondimento sulla Brexit si intitola Se Oxford non si rassegna alla Brexit. Ha avuto allievi premi Nobel, capi di governo, compresa la neo premier Theresa May, anche fautori dell'uscita dall'Unione Europea, ma oggi l'università è sotto shock e Stefania Chiale è andata a parlare con professori ma anche studenti per capire questa reazione alla Brexit. Ultimissima notizia sulla Brexit, trovata sul Sole 24 Ore di oggi, pagina 28, Walter Riolfi ci racconta gli strani miracoli della Brexit sui mercati. Trionfa la logica del tanto peggio tanto meglio, nella convinzione che le banche centrali faranno di tutto per arginare la crisi. Si comprano azioni perché rendono e renderanno più dei bond, tutte tranne quelle dell'eurozona. Quindi abbiamo parlato tantissimo delle paure che si avevano sulle conseguenze finanziarie, oltre che sull'economia reale, della Brexit. Ecco, per esempio, questo oggi il Sole 24 Ore approfondisce questo aspetto. Era l'ultima segnalazione per oggi. Non ci sentiremo sabato prossimo, perché ci sarà quasi certamente Gigi Donelli, e poi vi do appuntamento a dopo l'estate, ma vi do anche appuntamento tra non molto, circa un'oretta, per la rassegna stampa dei quotidiani italiani. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.